Il proprio paese è un rifugio ed è una prigione. Se ci rimani, con il passare degli anni, ti sembra che il paese ti si stringa addosso, come una cintura troppo stretta. Ti manca il fiato, ti senti gonfio, a disagio. Le strade le conosci a memoria, le piazze e i monumenti ti sono talmente familiari che non ci fai più caso. Saluti le persone per strada con una cortesia che non ti appartiene. Lo fai perché va fatto, perché altrimenti poi si pensa che tu sia diventato scorbutico. Perché poi gli amici di quella persona lo dicono ai tuoi amici, ai tuoi parenti, e un giorno a pranzo tua madre ti racconta che in giro si dice che te la tiri, che sei diventato antipatico, e tu senti la cintura sempre più stretta. E pensi che tu da lì te ne vuoi andare, che odi tutti e che odi te. Sì, perché non te ne sei ancora andato. E poi un giorno decidi e lo fai. Te ne vai. E allora vivi in un altro posto, una città, magari grande, magari no. Un posto in cui non conosci nessuno e nessuno ti conosce. Trovi un lavoro, una fidanzata, degli amici e una casa. Passano gli anni e quella diventa la tua città, diventa casa tua. E quando capisci che è diventata casa tua, allora cominci a ripensare a quella che era stata casa tua, il tuo paese. Ci vai sempre di meno, però ora quando ci vai non ti senti più stretto, ti ci senti comodo. Ti accorgi che non era poi così male. Quando ci torni vai a prendere il dolce nella pasticceria della piazza, oppure fai una passeggiata davanti a quel monumento che ora ti sembra bello, pieno di storia. Vai a trovare il tuo vecchio allenatore, che è una persona come non hai più trovate. E allora capisci che è stato giusto andare via, ma che è bello tornarci al tuo paese. Ci sono piccole cose insignificanti che ti cullano, che ti fanno sentire a casa.